Bravi, bravissimi, così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò se non dispiace, bramo provare un pezzo di stile fatto nuovo. Voltiamo ora le carte e si incominci in un canto abile, allegro, cioè di due colori, come una salsa che avie più sapori. I piani e i forti vi prego d'osservare. Il contrabbasso non dia quelle strappate che fan cattivo effetto nell'armonia. Le violette, il violoncello, s'accordin bene insieme nel passaggio che loro fatto. Si incominci la battuta con forza e calore, si incominci il gran morso con strepito e vigore. Suoni fra suoni e canti, sposi brillanti, pieni d'amor, sposi brillanti, pieni d'amor, sposi brillanti, pieni d'amor. Voglio il violino. Colloboe, no, no, no, no, no, no, no, questo strumento non fa per me, non fa per me, non fa per me. Or su il flauto con la viola, or su il flauto con la viola. Tutta l'orchestra sa da suonar, tutta l'orchestra sa da suonar. Non che di meglio si può trovar. Tutta l'orchestra sa da suonar. Ci sposeremo fra suoni e canti, sposi brillanti, pieni d'amore, sposi brillanti, pieni d'amore, sposi brillanti, pieni d'amore. Voglio il violino. Voglio il violone. otto colloboe, colloboe. No, no, no, no, no, no, no, no, questo strumento non fa per me, non fa per me, non fa per me. Voglio il violino. Voglio il violone. La violetta. Or il flauto. Or il fagotto con l'oboe. Colloboe. No, no, no, no, no, no, no, questo strumento non fa per me, non fa per me, non fa per me. Tutta l'orchestra sa da suonar, tutta l'orchestra sa da suonar. No che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra sa da suonar, tutta l'orchestra sa da suonar, tutta l'orchestra sa da suonar. Tutta l'orchestra sa da suonar, tutta l'orchestra sa da suonar, tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo un andante allegro e presto che farà vi stupefar. Un cantabile con modo, un larghetto, un andantino, un larghetto, un andantino, e un talento sopraffino non potrà giammai imitar, non potrà giammai imitar.